compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Catalogna con Marco Bolasco. Oggi si va in Spagna. Sono con Marco Bolasco, che mi farà fare un giro davvero gustoso in quella parte di Spagna, che di Spagna però pare abbia poco, la Catalogna. La Catalogna è una nazione storica dell'Europa, il cui territorio si trova all'estremità nord-est della penisola iberica, tra i Pirenei e il Mediterraneo. La quasi totalità della Catalogna storica coincide con la comunità autonoma della Spagna, che porta lo stesso nome. La Catalogna è una vera nazione dentro la nazione, costituisce il cuore della lingua e della cultura catalana e per secoli è stata un regno indipendente. La sua capitale è Barcellona. La prima volta che sono andato in Catalogna è stato perché un amico gourmet mi disse: se tu ti occupi di cucina non puoi non essere stato in Catalogna. Mi sembrava un'affermazione un po' forte, però ho detto: partiamo, andiamo a vedere perché. Questo accadeva nel 2000, da quel giorno sono tornato in Catalogna 72 volte. Evidentemente questo amico aveva ragione. E il motivo fondamentale è naturalmente che è una bellissima terra di cui mi sono innamorato, anzi credo che da qualche parte dentro di me nel mio passato ci deve essere qualcosa di catalano, lo sto anche scoprendo a livello di albero genealogico, quindi forse trascende qualsiasi considerazione concreta, ma perché nei fatti era un luogo ed è un luogo di laboratorio e pensiero sul cibo che mi entusiasmava. Io scrivo di cibo e probabilmente devo anche trovare delle motivazioni forti per quello che faccio, e trovare il cibo come chiave di lettura del mondo mi sembra la motivazione più bella e più forte che si possa trovare. Quindi in qualche modo la Catalogna mi aveva colpito da questo punto di vista, cioè un paese che stava attraverso il cibo raccontando uno spaccato della sua società, del suo momento storico, che era già molto diverso, perché stiamo parlando di 12 anni fa e quello che è successo a livello di crisi ha stravolto tutto, ahimè, lì forse ancora più che in Italia. A giudicare dal numero di volte che Marco è stato in Catalogna, c'è davvero da pensare che avesse ragione il suo amico gourmet. Se ti occupi di cucina, devi andare in Catalogna. E questo risale ormai a 12 anni fa. E quindi la Barcellona del 2000 era la Barcellona del post-Olimpiadi del 92, era la Barcellona degli architetti, dei designer, degli artisti, del teatro. Era la Barcellona che si rifletteva in tutto quello che riuscivamo a vedere anche noi di spagnolo o di catalano, senza sapere che era catalano, perché poi questo è l'altro grande tema, la differenza fra Catalogna e Spagna. E dentro a questa evoluzione, dentro a questa avanguardia, si può secondo me parlare di avanguardia culturale, c'era la cucina, ed era una cucina che riusciva a raccontare, rompendo gli schemi, cose nuove. La cucina come avanguardia culturale nella Catalogna post Olimpiadi è il tema con il quale Marco Bolasco mi vuole far conoscere questa terra, che pur essendo in Spagna, dalla Spagna si differenzia moltissimo. Questa è una cosa, un concetto che è apparentemente semplice, ma in cucina non è affatto comune, perché la cucina è memoria, la cucina è tradizione, la cucina è territorio, e tutto questo è bellissimo ed è giusto che sia così. Ma non è così facile trovare qualcuno che sia capace di rompere gli schemi della cucina. In Catalogna ci riuscivano e questo mi ha colpito subito. E mi ha fatto capire che ci riuscivano perché in qualche modo il momento storico, il momento culturale, l'economia di quel paese creava un contesto come un terreno fertile per fare questo. In un paese come il nostro, sicuramente più rivolto al passato che al futuro, sicuramente più conformista, sicuramente più anche con un patrimonio gastronomico forte, più forte di quello spagnolo e catalano, scrivere pagine nuove è difficile, È un po' come quando si dice che hai un genitore troppo ingombrante e tuo figlio non riesci a crescere. E invece in Catalogna sì. E vediamo com'è cresciuta la cucina in Catalogna, ma soprattutto a chi si deve questa emancipazione costruttiva della tradizione. La prima considerazione che ho fatto è stata quando, viaggiando, attratto in maniera quasi magnetica da alcune figure importanti. La più importante e la più discussa è quella di Ferran Adrià, che è un cuoco geniale, il cuoco del Bulli, il ristorante che ha fatto parlare negli ultimi anni tutta la cucina del mondo e che si trovava, perché non c'è più, in una cala, Montjoy, quindi siamo nella parte catalana più vicina alla Francia, in cima alla Costa Brava, una zona di coste bellissime, molto simile alle nostre coste toscane, Argentario, Isola del Giglio, questi posti qui. E lì c'era un ristorante in cui questo cuoco aveva introdotto una serie di elementi lessicali nel suo menù che non si erano mai visti prima. Per esempio, un grande ristorante che non faceva cucina borghese. Perché? Perché secondo lui una patata doveva avere la stessa dignità del tartufo. Secondo lui l'astice non era assolutamente la cosa più interessante che potesse proporre ai clienti, e quindi magari trovava un pesce raro, ma non raro nel senso del prezioso, raro nel senso che non se lo filava nessuno e lui provava a metterlo nel piatto. E lo faceva utilizzando intanto i cinque sensi, perché tu giocavi, sentivi i profumi, toccavi, guardavi, partecipavi a un'esperienza che non era solo gusto, no? Ma era di tutto, e compreso il racconto. Ti divertivi e ti alzavi arricchito. Io le prime volte ero tra lo stordito perché erano troppe cose tutte insieme e l'arricchito. Ridare dignità agli ingredienti apparentemente poco nobili. Questa sì che è cucina. Mi viene in mente una frase di Shakespeare che si può avvicinare all'atteggiamento di Ferran Adrià. È un cattivo cuoco quello che non sa leccarsi le dita. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Catalogna con Marco Bolasco. La Catalogna è rimasta nel cuore di Marco Bolasco dopo che nel 2000 ci è andato per la prima volta. Infatti da allora ci è tornato ben 72 volte, se non è amore questo. Ma prima di arrivare al cuore, è passata dallo stomaco. Sì, la cucina è la prospettiva con la quale Marco mi sta facendo fare questo viaggio. Cucina e avanguardia. Mi ha parlato di Ferran Adrià, un cuoco che è riuscito a rompere gli schemi, raccontando la sua terra, ma soprattutto il suo periodo storico e come lui, altri. Questo cuoco, insieme ad altri cuochi, ha creato un movimento che qualcuno ha definito cucina tecno-emozionale, che mi sembra un po' una parolaccia, però spiega qualcosa. E nel senso che c'è tanta tecnica, per molti troppa, tanto che Ferran Adrià è stato accusato da tantissimi, anche qui da noi, di essere un mistificatore, uno che quasi come un alchimista rimescola cose, e allo stesso tempo capace però di toccare dentro il cuore, le emozioni, la memoria, perché poi per esempio il cibo, quando va a toccare elementi conosciuti o sconosciuti, ci emoziona. E quindi questo movimento di cucina ha cominciato a ridisegnare un modo di intendere la cucina e soprattutto un modo di intendere i ristoranti. Cioè oggi se andiamo in giro per il mondo e andiamo in giro per anche l'Italia e troviamo posti colorati, diversi, curiosi, in cui gli elementi che hanno contribuito ad arricchire l'esperienza a tavola sono tanti, sicuramente lo dobbiamo anche a questi signori. Cucina tecno-emozionale. Definizione strana anche perché la tecnica dovrebbe fare a pugni con l'emozione. Eppure, in questo che si potrebbe definire quasi un ossimoro, c'è tutto il fermento catalano di cui Marco Bolasco mi sta parlando. Per cui la conoscenza con Fran Adrià è la conoscenza con altri personaggi, una cuoca molto catalana legata al suo territorio come Carmen Ruscaglieda, un cuoco matto che poi è scappato in America, che era un neurologo che per 3 giorni alla settimana faceva il neurologo e per 3 giorni alla settimana faceva il cuoco, che si chiama Miguel Sanchez Romera, adesso ha aperto un ristorante a New York, a Manhattan. Ecco, questi signori, che allora non erano così famosi, mi raccontavano la loro idea di cucina. E a me sembrava tutto tanto così nuovo da essere entusiasmante. Poi ero anche un po' più giovane di adesso e quindi ero più facile all'entusiasmo. E poi mi raccontavano quello che stava succedendo in Catalogna, perché il loro lavoro era lo specchio di un momento storico, quello della Catalogna post-Olimpiadi di Barcellona 92, quello della rinascita del design, degli architetti, della moda, del teatro, della letteratura. Barcellona è da sempre una porta verso tutta il Latino America, ci sono alcuni dei più importanti agenti letterari, alcune case editrici, quindi anche se Madrid ovviamente resta un riferimento, però la Barcellona culturale da sempre gioca un ruolo importante. Beh, è una persona che 3 giorni alla settimana fa il neurologo e 3 giorni fa il cuoco, è certamente da avanguardia. Il ricordo della Catalogna in quegli anni, lo stupore di capire man mano che andavo avanti, man mano che conoscevo i cuochi, man mano che mangiavo piatti, quanto quello che vedevo non era Spagna. Questo sicuramente è un grande dibattito e questo sicuramente farà più piacere ai catalani che non agli spagnoli, ma io la vedo così. Io credo che questo sia una regione, un paese, perché loro poi lo definiscono tale, che ha un'identità molto marcata, che parte dalla lingua, che è un'altra lingua. Chi è stato a Barcellona lo sa, anche se magari non si nota perché non sono lingue così distanti, ma il catalano ha una storia molto vicina a noi, per esempio in Italia, che è diversa da quella del castigliano. E quindi a partire dalla lingua fino ad arrivare agli usi, costumi, al modo di essere di una città, in particolare Barcellona, ma anche di tutta la parte della costa, della parte dei Pirenei, perché poi l'aspetto affascinante è quello di una terra che ha un po' in pochi chilometri, perché adesso potrei dire una sciocchezza, ma non credo che sia così più grande della Lombardia, però è un microcosmo che va dal mare ai Pirenei, che mette dentro altitudini, grandi città, piccoli centri, storia, natura, quindi la cosiddetta biodiversità è molto visibile, è molto forte. Capucell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg. La Catalogna non è del tutto Spagna nei racconti di Marco. Affermazione che farà poco piacere agli spagnoli, come ha detto lui, e molto piacere ai catalani. E quindi scoprivo che era un paese con un'identità propria e che in qualche modo a me piaceva molto quell'identità. Perché quando mi capitava di andare poi in altre regioni spagnole, che hanno altri, ovviamente altri aspetti bellissimi, però non ritrovavo quegli stessi elementi che erano propriamente catalani, propriamente barcellonesi. E sono persone molto dinamiche, sono persone molto rigorose, molto attente al lavoro, in questo hanno qualcosa di comune ai nostri milanesi o torinesi, diciamo. Hanno degli orari anche piuttosto precisi, tutt'altro che elastici, ma sanno divertirsi e sanno anche trovare lo spazio per una socialità, una familiarità, e quindi l'aspetto del tempo libero è un aspetto molto importante, molto misurato, molto ben utilizzato. Così come il senso civico, penso che sia per essere un paese mediterraneo, tanto vicino a noi e ad altri paesi che si affacciano sullo stesso mare, trovo che i catalani abbiano un senso del bene comune, che forse è legato ovviamente anche agli ultimi anni, a una fase felice, a una fase di crescita, che purtroppo si sta un po' arrestando nell'ambito di questa crisi che sta cambiando i connotati un po' tutta l'Europa. Però hanno una grande sensazione dell'essere un insieme che ha valori comuni, che ha senso difendere, che ha senso proteggere, valorizzare. Per cui, per esempio, a me è capitato in più di un'occasione di sentir parlare di cose proprie del proprio territorio con un orgoglio che qui è difficile trovare. La descrizione dei catalani come un po' torinesi e un po' milanesi fa sorridere. Affermazione anche questa che farà piacere solo ad alcuni probabilmente. Ma seguo Marco con grande curiosità. Voglio vedere dove ci porterà la Catalogna, vista dalla parte della cucina. E tutto questo mi ha colpito moltissimo, mi è piaciuto da morire, compresa questa idea un po' bohémienne che apparteneva appunto a una voglia di fare dell'inizio degli anni 2000, in cui sembrava che tutto fosse possibile. E in questa epoca in cui è difficilissimo sognare, ripensare a un momento, a un paese in cui invece il sogno era una parte fondante del fare ed era uno degli elementi che consentiva effettivamente di realizzare progetti, compresi quelli dei ristoranti, che erano dei luoghi sociali un po' buffi, colorati, giovani, senza criterio. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Catalogna con Marco Bolasco. Conoscere un paese attraverso la sua rivoluzione in cucina è quello che mi sta facendo fare Marco Bolasco. Gliel'ha suggerito un amico gourmet. Se ti occupi di cucina, non puoi non andare in Catalogna, gli disse. Mi ha già presentato Ferran Adrià, un cuoco di grande avanguardia che ha contribuito a questa nuova riscrittura della tradizione culinaria. Con lui Carmen Ruscadella e Miguel Sánchez Romera, solo per citare i più famosi. Specchio del loro periodo storico, si sono resi colpevoli, in senso positivo, della nascita di una cucina tecno-emozionale. Ne ricordo uno in particolare, molto meno famoso, che c'è ancora, è nella calle. Anzi, carrer, come dicono in catalano, commercio, cioè via commercio per capirci, nel quartiere del Born, quindi siamo vicino alla Barceloneta, nel centro della parte vecchia di Barcellona. C'è questo locale che si chiama Santa Maria e si potrebbe definire un bar a tapas creativo, un bar a tapas fantasioso. Il cuoco si chiama Paco ed è un giovane un po' matto, che mescola prodotti catalani, influenze asiatiche, si inventa dolci con la Coca-Cola dentro, però lo fa con uno spirito talmente onesto, spontaneo, che anche le sue cose un po' più intrugliate alla fine te le mangi volentieri. Questo ristorante, il racconto di Paco, è che fu costruito per iniziativa di un gruppo di amici. perché non c'erano i soldi, era un'idea, era la voglia di fare una cosa, e soprattutto per fare un luogo dove ritrovarsi, che quindi costasse poco, che quindi fosse un posto di tapas, perché lì si giocava sulle tapas, e che fosse nuovo. E allora gli amici dissero: ognuno di noi porta qualcosa, e senza voler nulla in cambio. Ovviamente Paco ha sempre pensato, e poi lo ha fatto, di restituire. Per cui l'amico architetto ci ha messo un disegno, l'amico musicista ha portato l'impianto per la musica, l'amico falegname ha realizzato alcuni materiali, fino ad alcuni amici produttori che hanno fornito le prime carni, i primi ortaggi. E così è nato un localino che è diventato famosissimo, e c'è ancora, quindi vale la pena di andarci. Dolci alla Coca-Cola? Ma per quanto cerchi di seguire Marco in questa nuova visione del sogno catalano, che si traduce anche nel cibo, qui mi fermo. Ma l'onestà e la spontaneità in cucina che pare abbia Paco ci piacciono a tal punto da perdonargli certe prodezze. Mi chiedo a questo punto se questa rivoluzione è avvenuta solo a un certo livello o se invece ha investito tutti. No, io penso che è stata sicuramente una rivoluzione culturale che è arrivata anche in basso, forse non è partita dal basso, ma è arrivata anche alle fasce più diffuse della popolazione, tanto che oggi Ferran Adrià è una specie di Messi lì, cioè sono tutti contenti e orgogliosi di questo cuoco, anche se magari non ci hanno mai mangiato, perché il Bulli, che è un ristorante che appunto non esiste più perché un anno fa Ferran Adrià ha deciso di chiudere e provare a fare una fondazione, quindi investire soldi per la ricerca e per sviluppare progetti nuovi, non più per il ristorante in senso stretto. Era un ristorante in cui c'erano 5.000, ho fatto un calcolo una volta, 5.000 posti a sedere l'anno, tra tutte le sere che era aperto. Evidentemente basta fare una proporzione, considerare che forse più della metà del pubblico arrivava dal resto del mondo, per capire che anche in 20 anni ci saranno andati a mangiare e il numero di catalani, il numero di un grande villaggio, ma non di più. Cada tarda il meu tema preferit vostre són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny, m'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un galà heu parat una furgoneta aprofitant. Pare quindi che la rivoluzione culturale sia arrivata fin dentro ai fornelli della gente comune, e non solo di ristoranti come El Vulli di Ferran Adrià. Direi che la coscienza del cambiamento è stata profonda, ha raggiunto e inorgoglito molte persone che hanno portato alcuni elementi di novità nel loro mangiare quotidiano. Adrià ha fatto un bellissimo libro che è Mangiare in casa, mi sembra che sia il titolo, che ha pubblicato Faidon, anche qui in Italia, e che sostanzialmente racconta come applicare alcuni concetti nella quotidianità. Per cui direi che l'aspetto straordinario è stata la capacità di valorizzare, e anche da un punto di vista economico, ottenere dei grandi frutti da una rivoluzione gastronomica che è diventata di tutti e che va dal piccolo bar al grande ristorante. Tanto che oggi in Catalogna, quando si prende una pubblicazione turistica, anche per esempio una pubblicazione fatta dall'ente del turismo, dal comune, spesso si trova a fianco della chiesa, a fianco del museo, a fianco dell'attrazione sportiva nota, il cuoco, il prodotto, il piatto, che è una cosa abbastanza nuova. Da noi peraltro è difficile trovarla, anche perché comunque la cultura del cibo, la cultura materiale, sconta una sorta di sudditanza nei confronti della cultura tradizionale. Questa cosa in Catalogna è totalmente superata, e quindi sono tutti appassionati, sono tutti mangioni, sono tutti, ma nel senso buono, non nel senso che mangiano grandi quantità, ma che il loro caffè, il loro spuntino, il loro panino, il loro pranzetto di famiglia deve avere qualcosa di speciale. E quindi direi che sì, è arrivato a tutti. Ma nelle tue visite in Catalogna, hai cercato di condividere con la gente del posto queste riflessioni? Sì, all'inizio mi guardavano come un marziano, cioè quando io dicevo ma questa avanguardia, questa rivoluzione in cucina, probabilmente perché c'erano dentro, non avevano tutta questa coscienza e i tradizionalisti incalliti erano anche già molto critici. Poi le cose sono cambiate, hanno visto i frutti e quindi sono stati loro i primi a cominciare a portare su questi temi tutti gli amici, tutti quelli che arrivavano da fuori. Mi ricordo una volta in un dibattito un accademico della cucina mi disse: ma lei non pensa che questa cucina nuova di avanguardia stia rovinando l'identità della tradizione catalana, lei che viene da fuori? E io gli risposi: ma guardi, in tutta onestà, se io non ci fosse stata questa cucina, io probabilmente oggi non saprei neanche che esiste una cultura catalana della cucina, penserei al grande insieme spagnolo, no? Quindi penso che abbia giovato alla fine, e sono profondamente convinto del fatto che tra modernità e tradizione non ci possa, non ci debba essere un conflitto, perché non esiste futuro senza guardarsi indietro, questo è evidente, ma la cucina, come tutte le attività artigianali o addirittura artistiche, per chi le vuole considerare tali, cambiano, evolvono, e quindi pensarle come degli insiemi statici che non permeabili a quello che accade intorno è semplicemente non reale. Una madre che viene da Milano, si trasferisce in un'altra città e cucina per suo figlio, probabilmente porterà un pezzo di questo, un pezzo di quello che ha trovato, e però magari fa gli agnolotti, no? E li fa come gliel'avevano insegnati. Quindi la cucina è bella perché è un mix di queste cose. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Catalogna con Marco Bolasco. Dopo aver conosciuto i catalani e la loro terra attraverso la rivoluzione in cucina degli ultimi decenni e dopo aver incontrato alcuni dei cuochi che hanno guidato questa avanguardia, è arrivato il momento del consiglio. Che cosa si deve mangiare per appropriarsi ancora meglio di questo paese e della sua gente? Io non ho dubbi, andrei sul tradizionale, perché poi è interessante vedere come molti elementi della cucina tradizionale catalana hanno in sé il germe della novità, il germe del contrasto, il germe positivo della miscela, per esempio tra mare e montagna, tra sapori diversi. E visto che arriva, come dire, con la bella stagione in assoluto e viene voglia di cibo anche più fresco, l'esqueixada, che è un piatto, sostanzialmente un'insalata di baccalà, pomodori, olive e cipolle fredda. Da loro il baccalà arriva, c'è una cultura grandissima del baccalà, che non è un prodotto locale, anche questo viaggio arriva dai mari del nord, però c'è cultura della selezione del prodotto, quindi la cucina non è sempre prodotto di quel luogo, ma a volte è interpretazione di un prodotto che arriva da lontano per ragioni storiche. Anche il caffè che noi ci beviamo tutti, che è prodotto tradizionale, in realtà non lo coltiviamo mica in Italia. E quindi questa insalata di baccalà, che si chiama esqueixada, secondo me è un piatto meraviglioso della cucina catalana. E vada per il baccalà allora. E che cosa si deve bere per chiudere il cerchio? Ma io ho svestito in questo racconto i panni dell'esperto per raccontare una passione personale, quindi anche l'esqueixada la racconto per quello che è, e non voglio dire il miglior prodotto, la miglior bevanda, perché secondo me, con tutto che in Catalogna ci sono dei vini straordinari, sarebbe meno interessante per chi ci ascolta. Mi viene però da dire subito una cosa, cioè che sanno servire benissimo la birra. Quindi anche la birra più stupida te la servono mediamente bene, in dei bicchieri più piccoli, quindi la gusti di più, perché mai prendersi un boccale troppo grande con la birra che aspetta e si scalda, meglio bersi quattro bicchierini piccoli se proprio si deve bere di più. E questa forse anche per le temperature, per il mare e per la cucina di pesce, trovo che alcuni abbinamenti con la birra siano molto interessanti. E quindi nobilitiamola questa birra, che troppo spesso è considerata una bevanda di serie B e invece merita tutte le attenzioni del caso. La prima notte in un cachet, la següent sota el pont de la ciutat, la tercera pensant el camí fet, i la quarta somiar en com desfer-lo. Mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel. In compagnia di una buona birra servita in piccoli bicchieri, così da averla sempre fresca. Adesso chiedo a Marco quali altre forme d'arte, oltre alla cucina, meritano di essere conosciute se si viene da queste parti. Ma sì, direi che l'accessibilità alle forme artistiche, teatro in testa, ma anche le mostre, le esposizioni, è una delle cose che colpiscono di più. Per cui grandi passeggiate tra e dentro elementi d'arte mescolate al mangiare potrebbero essere una bellissima prospettiva. In fondo la facilità di un certo modo di mangiare anche a piccoli bocconi in bar, no? Il concetto di bar, che non è lo snack bar italiano ma è un luogo dove si fa ristorazione più veloce, quindi il bar a tapas su tutti, permette per esempio questo spostamento, questo cammino, che è un piccolo viaggio all'interno delle città o dei centri, in cui uno può camminare, mangiare una cosa, vedere una mostra, mangiare un altro boccone, andare al mare. È stato molto bello come hanno recuperato alcuni spazi di contatto con il mare nelle zone in cui il mare c'è, per cui c'è una forma di avvicinamento alle cose che hai intorno. Noi qualche volta le nascondiamo, non siamo capaci di vederle, lì anche la cosa più piccola viene molto valorizzata. Quindi uno dei momenti più belli, o comunque delle possibilità più belle che ci sono secondo me in Catalogna, è quello di intrecciare una forma di, appunto, di viaggio un po' più consapevole, un po' più gustoso, tanto per tornare a termini gastronomici, la parte di cucina con la parte di turismo classico, e quindi col vedere l'arte, col conoscere il teatro, con l'ascoltare un pezzo musicale, che sia all'interno di spazi chiusi o in strada, perché l'altra componente bella è che spesso si trovano e ci si imbatte quasi per caso in artisti di strada, in spettacoli pubblici. Che bella questa commistione tra cibo e arte, e che bella questa Catalogna dove si mangia come si vive. Per chiudere, torniamo ai libri. Marco mette di nuovo insieme viaggio e cucina. Grazie Marco per averci fatto fare oggi un buon viaggio e per averci dato anche delle buone letture. Allora, per quanto riguarda i viaggi, sicuramente i primi spunti nella mia testa di viaggiatore che viaggiava con la testa prima ancora di riuscire a viaggiare per davvero vengono da Gianni Rodari, sicuramente, ma non saprei neanche dire un libro perché ce ne sono tanti. E per quanto riguarda poi i testi sacri, ovviamente le guide sono una parte fondamentale del viaggio, quindi scelgo la mia, quella delle Osterie d'Italia di Slow Food, perché penso che anche, abbiamo parlato tanto di innovazione, ma attraverso lo spaccato sociale della tradizione tu puoi leggere molti elementi. Per la Catalogna invece, anche qui non scelgo un libro ma scelgo un autore, Mercè Rodoreda, per motivi affettivi legati al mio passato, perché è stata la prima cosa catalana che ho conosciuto senza sapere che era catalana, ma di fatto è una delle più grandi scrittrici del Novecento e quindi merita di essere letta. Ora Marco Bolasco è in libreria con Cronache Golose, Slow Food Editore. Aquesta nit he obert aquella porta, tu i he tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular de sota l'arc, frontera del desert. No distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps. Dones llengot o més gripau sobre un gran roc.